Luponer Summersburgo. Bentornati a questa seconda, a questo secondo episodio della seconda stagione di Luponer Summersburgo, la versione estiva di Luponer, in cui c'è solo la voce di Vanni, quella della Flamicia, solo all'inizio a salutarvi, e in cui cerchiamo di dare spazio a tutte le robe che ci sono avanzate durante l'anno, perché i dischi escono continuamente e noi di tempo ce ne abbiamo Molto, ma non abbastanza. Molto, non abbastanza. Per esempio, ci siamo accorti adesso dell'esistenza di D-Sexual o Dissexual, comunque perché so, di Los Angeles, nonostante il nome vagamente cruccofono. Sto di Los Angeles e quindi probabilmente messicani, perché Rossellini e Anton Floriano penso che abbiano quell'origine là. Sono arrivati al secondo album, che si chiama Magic Never Dies, da cui abbiamo ascoltato il brano che dà il titolo all'album, appunto Magic Never Dies, dei Dissexual o Dissexual, fate un po' come pare. Invece arrivano sempre dagli Stati Uniti, ma da Detroit, Michigan, i Demon Beach, una band di heavy metal molto molto classico, esce per la Gates of Hell Records, e sono arrivati adesso al secondo album intitolato Master of Games, e da quest'album ascoltiamo il brano Knot of a Cruciform, Demon Bitch. Listen! Lupo On Air, Summersburgo. A ver pues, let me tell you something. First I'm gonna hide and then I'm gonna cry. Then I realize I woke up and I fight. First I'm gonna hide and then I'm gonna cry. Then I realize I woke up and I fight. Habla, habla como carabina y tira, tira como una poeta. Gira, gira que la vida solita hay que manejarla. Suéltalo que no vale la pena. Como tu cadera, habla, habla como carabina y tira, tira como una poeta. Delish, lie on the bar, plátano frito y mucho azúcar. La cosa suave te mantiene de pie. Besito en la boca, besito en la boca. Delish, lie on the bar, Lala toma su café caliente. La cosa suave te mantiene de pie. Besito en la boca, besito en la boca. Piccolo, come lo chiameresti? Baby Volcano? Eh beh, è qui, è la Burel che ci propone Baby Volcano, che è l'artista che abbiamo ascoltato adesso, che come avete capito sicuramente all'accento è mezza svizzera, mezza dal Guatemala. Come si dice? Guatemalteco. Guatemalteco, mezza svizzera, mezza guatemalteco. È una ballerina, si è vista, no? Si è sentito dall'audio che è una ballerina professionista, no? Ha poco pubblicato il suo secondo EP intitolato Supervivencia. E niente, l'abbiamo ascoltato, è stato bello? Vi è piaciuto? No, il brano che abbiamo ascoltato era Delish, Baby Volcano. E invece adesso qualcosa che fa veramente caciara, perché questo non era niente fondamentalmente. Abbiamo Hypnoskull dal Belgio, progetto di Patrick Stevens, che esiste dagli anni 90, è tuttora attivo. Adesso è uscito un EP per la Dead Sun Records, che è italiana, ma l'ho sentito, lo scopro ora in questo momento. E niente, un EP intitolato Ich Nicht, dove lui se la piglia col mondo come sempre. E ascoltiamo il brano Underqualified Enemies, Hypnoskull. Thank you. Lupo on air, Summersburgo. We'll be right back. quando la peyote ci manda delle cose non le ascoltiamo sempre, perché so, vicini di casa e gli vogliamo bene. Per esempio, però stavolta ci portano una band che non viene proprio da vicino vicino, perché noi siamo qua dalle Marche, trasmettiamo dalle Marche, e invece i Pale Blue Dot arrivano da Bologna. Penso che sia il loro primo album, questo Heart, che è misto, cioè un gioco di parole che funziona solamente se lo leggete, beh, io non lo leggo. Heart. Abbiamo ascoltato il brano, che il singolo che anticipava l'uscita dell'album, che era For the Beauty of Miranda. Questi qua erano i Pale Blue Dot. Invece veramente vicini di casa sono i Reality, che arrivano da Trodica, dai Morro Valle e dintorni. Sono prodotti dalla Sistema Mortal Tapes, che è una piccola etichetta dedicata a crust punk hardcore politicizzato estremo, in varie declinazioni, da più tendenzialmente lo-fi. I Reality sono l'ennesimo rimpasto delle solite persone, fondamentalmente, che girano in questa scena qua, almeno a livello locale, e hanno fatto una mini cassettina intitolata Earth of Darkness. Ascoltiamo il brano che abbiamo Under the Sun dei Reality. Summersburgo. We'll be right back. By the gall of clinging steel, by the welt of the whips have left me, by the scars that never heal, by the brand upon my shoulder, by the gall of clinging steel, by the welt of the whips have left me, by the scars that never heal. Dark Industrial Techno, così si autodefinisce Adam Ra da Polonia. Wroclaw, com'è in italiano? Comunque lui è il compositore di Incarnate e Orbicide, ce ne frega qualcosa? No, naturalmente. Limitiamoci a quello che ci è piaciuto adesso, sia questo brano, Scars. Lui era Adam Ra. E, una cosa quasi, cioè, vicina, elettronica, un po' industrial, un po' post-punk, ma molto più canzonettistica, è il progetto di Torba. Torba è Luigi Pianezzola di Bassano del Grappa, che si è già distinto come musicista live dei Soft Moon, fin qui esistevano i poraci. Ora lui è la seconda uscita, cioè, ma il primo album completo, che si intitola Punto. Ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album. Punto di Torba. Punto per Torba. Hold me back. Saints, Jalen, Baphomet, the night, what my lord, Pentagon, Jedi, sacrifice, the background, now, I'm calling my God, the son of my own, the undone, oh, as a name, bow, the same that lays, the cold sky, rain of God, exists, no more than, suffer seats, oh, the Abbas, the Abbas. Delicatezza del black thrash metal greco. Questi erano i Necrochakal, una band attiva da una dozzina d'anni, abbondante, però tuttavia appena ha raggiunto il traguardo dell'album. C'è la prima volta che producono un album completo col Gothian Orgies of Bestial Lust. Abbiamo ascoltato il brano Satanas Rebirth. Bene. Ora toni più pacati per Last Days of Burden, dalla Germania, un po' depressione mitteleuropea, anche lui arriva al traguardo dell'album ma in cassetta. In realtà era già uscita una cosa che io consideravo un album, ma lui evidentemente no, quindi niente, l'album è questo qua, Black Ocean Beyond Time, e ascoltiamo il brano che dà il titolo al tape album di Last Days of Burden, appunto Black Ocean Beyond Time. Thank you. Spurgo. Aesthetic Perfection è una band di dark electro industrial, come lo vuoi chiamare, che è originariamente americana ma ormai austriaca, dato che vivono da anni e anni a Linz, anzi si definiscono industrial pop indipendente, ecco, da Linz, Austria, Aesthetic Perfection, con un album intitolato Closer to Human, che è proprio la replica del primo album Close to Human, che è uscito milioni di anni fa, ma dei quali si erano persi completamente in master. E siccome non gli andava di ristampare da una copia brutta, ha proprio riregistrato e ricomposto da capo tutti i pezzi come se avesse 15 anni di meno. Ma che bravi, che bravi. Abbiamo ascoltato il brano Architect e ora... E ora niente, ora è finita questa puntata di Lupo Nero Summer Spurgo. Vi lasciamo con un brano dei Kneecap. Allora, c'è stato da poco il festival di Glastonbury nel Regno Unito, la BBC mandava in diretta quasi tutto, come fosse il concertone del primo maggio, diciamo. Però il problema è che nel mondo esistono un sacco di cose brutte, questo periodo forse più del solito, perché per esempio Israele sta praticando un genocidio in Palestina, sotto gli occhi di tutti, però per molti è una cosa da poco. Quindi normalmente gli esseri umani convocati negli eventi pubblici protestano e cercano di dimostrare che non gli piace questa cosa brutta. La BBC ha deciso di oscurare tutti quelli che sapevano che avrebbero detto delle parole brutte su queste cose brutte, tipo i Kneecap. No, però gli è sfuggito Bob Vilan, che invece ha fatto una bella sequela di insulti all'esercito israeliano, è cosa buona e giusta. Però noi Bob Vilan lo conosciamo già, ma il fatto che la censura della BBC mi ha fatto notare Kneecap, che altrimenti sarebbe sfuggito. Grazie BBC per la vostra censura, così abbiamo scoperto questo duo irlandese che da Belfast, che tuttavia spinge per il repubblicanesimo nel Regno Unito. Quindi c'è da divertirsi, ovviamente, se vantano i diritti dell'Irlanda, come non potrebbero vantare i diritti per la Palestina. Quindi niente, ascoltiamo il loro ultimo singolo fatto in complicità con Mosey, che è un giovanotto, nuova promessa della drum and bass contemporanea. Questo singolo si chiama The Recap e essi sono Kneecap e Mosey, e ci sentiamo giovedì prossimo per la prossima ennesima puntata di Lupo Nero Summer Spurgo. Jetzt bläst, lädt der Jim Dore Kedess, Leute rennen, kühl schwarz, jetzt haben sie tot, Leute rennen, schon real, das sind nicht in Bett, sneak out, give them a frisk, spur on land, no deep, but we know they've got more than this, grab, lower, I'm a stroll to the bank, get me Cammy's money and give her my thanks, we'll call it reparations, but I knock your wank, try to take my money, but I came and collect it, fuck! You like to think that you're fooling everybody, but you're not. Just like the Aaron Nitty, your career is gonna rock. Her arm for under cock, you hear me? Had a smart cap, a recognition of raw liquor regardless. Short, I got the right, now it's gender the hop. Me and Wally, no man, you call the least of love. We like, I'm a king, can you get this come a giggle, can my dad cut you cold on the dark, cups a little can of rock. Roll the crack, revenge the fellas from the lower whack. When they see me, can I lower in a vodka? Shake me, cause I'm here to stroke ya. While on the road, I should look a couple of nova. Since they shoot with me, cops, I'll take them home now. You're bad enough, bad enough. Crying for your sherry, bad enough, bad enough. You thought was momentary, called your bluff, bad enough. Bell for the duration, fuck, bad enough. Nah, nah, nah, in the hell of father. It's Kneecap, the recap, rehab hell for a shot. Effort, Cammy. Power lines in the elections, and onwards and upwards, free Palestine. Lupo Nero Summer Spurgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau.